Questa è la tappa dell'Emilia-Romagna, della campagna Clean Cities. È, diciamo, una nuova campagna di Legambiente che è partita l'8 di marzo dalla città di Padova e si concluderà il 9 di aprile a Catania. Una campagna in 14 tappe che toccano alcuni capoluoghi delle nostre regioni da nord a sud. Lo scopo, diciamo, di questa campagna è quello di mettere in luce quale potrebbe essere il ruolo delle città come motori del cambiamento dei nostri stili di vita, per renderli ovviamente più ecologici e più sostenibili possibile. I temi principali, che sono la qualità dell'aria nelle nostre città e il tema della mobilità e dei trasporti. A livello regionale, il patto per il lavoro e il clima pone degli obiettivi veramente sfidanti, perché nel capitolo sulla transizione ecologica si parla molto chiaramente di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. 50, con tutta una serie di azioni che riguardano chiaramente il comparto agricolo, industriale, ma impattano direttamente anche sui nostri stili di vita, perché riguardano i sistemi con cui noi riscaldiamo le nostre case, energie rinnovabili, risparmio energetico, risparmio termico, quindi tutta una serie di misure volte proprio a ridurre il più possibile le emissioni climalteranti. In particolare, per quello che riguarda la mobilità, si parla di una riduzione del traffico motorizzato privato del 20% entro il 2025. Si parla chiaramente di un sostegno alla mobilità sostenibile con un rafforzamento delle reti di trasporto pubblico, con la creazione di 1.000 chilometri di nuove piste ciclabili, investimenti sugli interporti per trasferire il più possibile il traffico merci dalla gomma al ferro. Obiettivi ovviamente che noi assolutamente condividiamo, ma che poi non si traducono nella pratica, perché subito dopo, diciamo, il primo lockdown, gli investimenti che erano stati fatti, che si venivano preannunciati per una ripartenza dell'economia regionale, 14 miliardi di euro, prevedevano ben 4 miliardi di euro di investimenti su nuove autostrade. Si parla ovviamente della E55, che andrebbe peraltro con il nuovo tracciato a tagliare in pieno la ZTS del Mezzano. Si parla di nuova autostrada Cispadana, quindi, come dire, in netto contrasto con quello che invece è previsto all'interno del piano per rilanciare l'economia regionale. Gli investimenti per migliorare le infrastrutture esistenti erano inferiori a 500 milioni di euro, quindi 4 miliardi sulle autostrade e 500 milioni per la risistemazione delle infrastrutture. C'è qualcosa che non torna, esattamente come il discorso della logistica. Nel piano si fa riferimento appunto ad un trasferimento delle merci da gomma a ferro, ma poi dall'altra parte si vanno a sostenere realizzazioni di poli logistici, tra cui quello di Altedo e di San Pietro in Casale, completamente svincolati e lontani da una rete ferroviaria e invece vicini ad un casello autostradale, quindi con una, diciamo, chiara intenzione di rimanere esattamente trasporto su gomma. Sempre nel piano si parla di 4,5 milioni di nuovi alberi piantati nella regione per favorire la riduzione delle emissioni, quindi c'è una nuova forestazione per fare in modo che vengano sempre più sequestrati gli elementi inquinanti. Bene, assolutamente positivo, però il primo anno, diciamo, è partito un po' in corsa e quindi di tutti gli investimenti di alberi che si potevano fare ne sono stati fatti in realtà molto pochi, perché la procedura era farraginosa, perché non era coordinata. Si spera, diciamo, che questa partenza un po' in corsa venga poi migliorata nel futuro. Dall'altra parte, però, ci sono continui tagli di alberi all'interno delle città, lungo canali della bonifica, anche, diciamo, revisioni del verde con tecniche quali la capitottatura assolutamente inadeguate anche per poter consentire un futuro sviluppo delle alberature. Noi come Legambiente Emilia-Romagna sosteniamo, insomma, una serie di proposte per migliorare la mobilità all'interno della nostra regione. Proposte che sono uscite all'interno di un nostro piano nazionale di ripresa e resilienza realizzato da Legambiente Nazionale, che appunto comprendeva una serie di contributi da tutti i territori. Piano, diciamo, che Legambiente Nazionale ha realizzato esattamente come quello del governo, come se dovesse essere presentato a Bruxelles. All'interno, come dicevo, c'erano i contributi da parte di tutti i territori regionali, tra cui anche il nostro.